Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Ultima carta di Mubarak, aprire al dialogo con l'opposizione, rafforzata la sicurezza dell'ambasciata italiana al Cairo, oltre 15.000 nostri connazionali nel paese. Un patto per la crescita, il PD respinge al mittente la proposta di Berlusconi, Letta arriva a tempo scaduto. Trovata morta la studentessa scomparsa a Perugia, ha fatto solo pochi metri dall'auto lasciata abbandonata. Per la maturità materie senza sorprese, latino al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci, un ex generale, finora direttore del sistema penitenziario, è il nuovo ministro dell'interno egiziano. È l'ultima decisione, in ordine di tempo, presa dal presidente Hosni Mubarak per cercare di fermare le violenze e salvare il regime. Oggi ufficialmente il coprifuoco scatta in questi minuti, ma ci sono migliaia di persone in piazza nelle principali città del paese. Ci sarebbero stati anche tentativi di saccheggi al tempio di Karnak a Luxor. Ma per saperne di più, per capire cosa sta succedendo questa mattina, ci colleghiamo con il Cairo e con l'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, com'è la situazione questa mattina? Raccontaci. Ecco, guarda, in questo momento, forse lo sentite anche dai rumori di fondo, c'è una grande agitazione qui al checkpoint dei militari vicino a Piazza Tahrir perché stanno arrivando nuove manifestazioni. C'è grande agitazione, i militari hanno preso il controllo di tutto il centro facendo dei checkpoint anche con blocchi di cemento. E poi c'è questa novità, il governo di Shafik dovrebbe aprire un canale di dialogo con l'opposizione. Io ho appena parlato tra l'altro col numero due dei Fratelli Musulmani, i quali insistono comunque che Mubarak se ne deve andare. Un'informazione per gli italiani, credo importante, per tutti coloro che sono qui al Cairo c'è un punto di raccolta organizzato dall'ambasciata all'ospedale italiano con un C-130 che dovrebbe evacuarli. Grazie ad Alberto Negri dal Cairo. E come sentivamo appunto, per quanto riguarda la situazione degli italiani bloccati da giorni in Egitto, questa mattina la Farnesina ha fatto un punto, era lì per noi Monica Ceravolo. La Farnesina ha rafforzato il team dell'unità di crisi al Cairo per gestire la sicurezza delle sedi diplomatiche e coordinare anche le situazioni di pericolo segnalate dai singoli, ma soprattutto è stata rafforzata l'unità di crisi in aeroporto, sempre al Cairo, dove si segnala una situazione estremamente caotica, soprattutto per il coprifuoco che concentra gli spostamenti in poche ore. L'Alitalia, attraverso l'invio di mezzi più capienti, sta cercando di garantire il posto a italiani che cercano di rientrare e che erano prenotati su Egyptair, che in questo momento non garantisce le partenze. Confermato da parte dell'unità di crisi l'invio di militari italiani, ma il loro numero è ritenuto notizia confidenziale. La Farnesina inoltre sta facendo pressione con le autorità locali per garantire la sicurezza degli italiani sia in strada che nelle case dopo le segnalazioni di furti nei giorni scorsi, furti nelle abitazioni. E il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Fabrizio Romano, non nasconde che uno dei problemi in questo momento è rappresentato dal fatto che molti italiani continuino ad andare in Egitto nonostante sia considerato estremamente imprudente. Certo. Ed è tutto. Grazie a Monica Ceravolo e a Narita D'Ambrosio. Ha sentito Lisa Meroni di Alpitour World a Sharm el Sheikh, una delle mete più frequentate dai turisti italiani. Sì, sono qua in ufficio a Sharm. Com'è la situazione? Perché si parla di una situazione oggi abbastanza tranquilla a Sharm, però ci sono stati carri armati per le strade, così perlomeno veniva riferito. No, assolutamente non c'è stato nessun carro armato, nessun militare per strada, nulla di diverso da quello che è sempre stato qua. Quanti italiani ci sono in questo momento nel villaggio Alpitour? Allora, noi in questo momento abbiamo quasi 400 persone sparse nei nostri hotel, abbiamo vari hotel un po' per tutti i gusti, quindi sono in vari hotel e abbiamo tutto il nostro staff di assistenza che li sta costantemente seguendo. Sono spaventati? Qual è la situazione? Vogliono rientrare? No, gli ospiti sono molto tranquilli, nessuno ci ha chiesto di rientrare prima. Fin qui dunque i fatti di oggi, ora l'incognita per riportare stabilità e la successione a Mubarak. Chi guiderà l'Egitto? Quali sono gli interessi internazionali in campo? L'analisi di Ugo Tramballi. Se i sogni si realizzassero, Mohammed al-Baradei diventerebbe il nuovo presidente democratico di un Egitto finalmente democratico. Sfortunatamente non sarà così, forse. L'ex direttore dell'Agenzia Atomica e Nobel per la Pace non ha un partito alle sue spalle e le opposizioni che lo hanno per ora scelto come il loro rappresentante, non ancora il loro leader, non sono un fronte compatto, ma un arcipelago litigioso. L'unico partito credibile organizzato dell'opposizione è la Fratellanza Musulmana. È per questo che l'amministrazione americana, gli europei e i mercati non puntano tanto su al-Baradei, per quante siano le sue qualità personali, ma sulla continuità del regime, posto che quel regime senza Mubarak abbia l'elasticità per riformarsi. Lasciamo l'Egitto, veniamo alla nostra situazione politica. Prima le ultime novità sulla vicenda Ruby. Dovrebbe essere depositato in settimana la richiesta di processo con rito abbreviato per Silvio Berlusconi, indagato per concussione e prostituzione minorile da parte della Procura di Milano. Questo stando alle indiscrezioni di questa mattina, che peraltro, di cui peraltro avevamo parlato anche nei giorni scorsi. L'interrogatorio ieri della consigliera nazionale Nicole Minetti è stato definito intanto al momento esaustivo. La Minetti dunque non sarà risentita. Durante l'interrogatorio di ieri avrebbe risposto alle domande in relazione ai suoi rapporti personali con Berlusconi. Si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere invece su rapporti con le cosiddette ragazze di Via Oggettina e sull'organizzazione delle feste nella residenza del premier ad Arcore. E Berlusconi intanto questa mattina dalle pagine del Corriere ha lanciato la proposta di un piano bipartisan per la crescita. Ci sono state reazioni, allora sentiamo quali sono dal nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. L'opposizione chiude a qualsiasi confronto che avvenga con la persona dell'attuale presidente del Consiglio Berlusconi. In attesa intanto della risposta ufficiale di Bersani, la linea del Partito Democratico è anticipata dal vice segretario Enrico Letta. Il tempo è scaduto, dice Letta, ascoltiamo le sue parole. L'uscita di Berlusconi arriva a tempo scaduto, queste cose le chiediamo da 2 anni, per 2 anni Berlusconi ha detto che tutto andava bene. Noi diciamo sì al confronto su quei temi, tra l'altro saranno i temi che noi affronteremo nell'Assemblea Nazionale venerdì e sabato, ma questo confronto lo faremo o con un nuovo premier di centrodestra oppure le faremo con Berlusconi stesso, ma in campagna elettorale. Entrando comunque nel merito della proposta di Berlusconi, sempre dal Partito Democratico si sottolinea come l'attuale governo abbia fatto passi indietro sulle liberalizzazioni. Quanto alla patrimoniale, anche il principale partito di opposizione concorda, non si tratta dello strumento per rilanciare l'economia. No a Berlusconi da Di Pietro, il terzo polo parla di inganno, dalla maggioranza tuttavia il Popolo della Libertà rilancia, chi rifiuta il confronto sbaglia, dice Gasparri, che aggiunge il governo comunque andrà avanti, forte della fiducia più volte ottenuta in Parlamento. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, noi voltiamo pagina perché è stata trovata morta la studentessa scomparsa a Perugia. Ancora le notizie non sono moltissime, ma sentiamo quali sono dalla nostra Beatrice Vergari. Beatrice. Sì, buongiorno. Come dicevi, è stata trovata morta la studentessa di Città di Castello, Elisa Benedetti, il nome, 25 anni, scomparsa nella notte tra sabato e domenica a Perugia. Il ritrovamento è avvenuto intorno a mezzogiorno a Vitella Benazzone, a nord di Perugia, nell'area boschiva dove è stata trovata ieri l'auto, una Punto grigia su cui viaggiava al momento della scomparsa. Alla ricerca stavano partecipando anche alcuni amici della ragazza. Il cadavere è stato trovato lungo l'ansa di un torrente, ma non in acqua. Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri. Ma si è capito com'è morta? Non è chiaro, il medico legale dovrà stabilire le cause della morte. Comunque la giovane dopo un sabato sera passato in un bar con un'amica e alcuni ragazzi nordafricani appena conosciuti si era allontanata misteriosamente. A notte fonda aveva chiamato il 112 dicendo di essere stata violentata e di non sapere dove si trovasse esattamente. Poi il cellulare si è scaricato e da lì nessuna notizia, fino appunto a un'ora fa quando è stato trovato il corpo. Grazie a Beatrice Vergari da Perugia. E restano gravi le condizioni del bimbo di 6 anni ferito ieri sera in un agguato nell'Agrigentino. Indagini a tutto campo. È stato operato in nottata per l'estrazione del proiettile dalla testa. Il bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera in provincia di Agrigento nel corso di una sparatoria. La prognosi resta comunque riservata e sul fronte delle indagini la squadra mobile di Agrigento segue ancora varie piste, non solo quella dell'agguato di stampo mafioso. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri in una strada di campagna vicino a Santa Elisabetta, a 30 chilometri da Agrigento, dove il bimbo aveva trascorso una giornata con lo zio zio di 30 anni e con il cugino di 16. Tutti e tre tornavano a casa, seduti davanti nel vecchio fuoristrada, improvvisamente raggiunto da due scariche di un fucile da caccia. Tutti sono stati feriti, in modo lieve i più grandi, gravemente invece Salvatore, seduto al centro, colpito non da un proiettile ma da una scheggia dell'auto. Al setaccio le parentele e conoscenze della famiglia del bambino, la madre è commessa in una boutique di Sciacca, il padre è disoccupato. Proprio la madre ha negato ogni legame della sua famiglia con i boss della zona, i Frangipane. Non abbiamo parenti mafiosi, ha detto la donna, anzi abbiamo due cugini nella Guardia di Finanza e amici in polizia. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso le materie per l'esame di maturità, ormai una tradizione, l'annuncio del ministro Gelmini online. Ecco le materie scelte per la seconda prova scritta della maturità. Per quanto riguarda i licei, al liceo classico è stato scelto latino, al liceo scientifico matematica, al liceo linguistico lingua straniera, al liceo pedagogico pedagogia, al liceo artistico disegno geometrico, prospettiva e architettura. Per gli istituti tecnici e professionali le materie scelte sono: per l'istituto tecnico commerciale economia aziendale, per l'istituto tecnico per geometri e costruzioni, per l'istituto tecnico per il turismo tecnica turistica, per l'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione alimenti ed alimentazione, per l'istituto professionale per i servizi sociali tecnica amministrativa ed infine per l'istituto professionale per tecnico delle industrie meccaniche macchine a fluido. Tutte le informazioni utili le potete trovare sul sito www.istruzione.it. E questa dunque era la voce del ministro Gelmini. Notizia invece degli ultimi minuti: Sky Italia e Fastweb starebbero per siglare un accordo per combinare l'offerta televisiva via satellite di Sky con i servizi internet a banda larga e telefonia fissa di Fastweb. Un accordo strategico commerciale che consentirebbe ad entrambi gli operatori non solo di offrire servizi di alto livello ad un prezzo accessibile, ma in prospettiva di combinare due infrastrutture tecnologicamente all'avanguardia. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato di quanto sta succedendo in Egitto, rafforzata la sicurezza dell'ambasciata italiana al Cairo, oltre 15.000 nostri connazionali nel paese, Mubarak apre al dialogo con l'opposizione. Poi la politica italiana, un patto per la crescita, il PD respinge al mittente la proposta di Berlusconi, Letta dice arriva a tempo scaduto. Evasione fiscale in crescita, vale 50 miliardi e poi ancora quasi 300.000 le richieste di stranieri per lavorare in Italia, oggi il primo click day. E ripartiamo proprio da qui, sentiamo come è andato dunque questa mattina il primo dei tre click day. I permessi di soggiorno in palio sono 98.000. Solo oggi, nel primo dei tre click day previsti dal decreto flussi 2010, sono arrivate 300.000 domande. L'ora X, scattata questa mattina alle 8, era destinata a 52.000 lavoratori delle cosiddette nazionalità privilegiate, i paesi cioè che hanno sottoscritto accordi di cooperazione con l'Italia. Sono arrivate per lo più richieste per colf e badanti, 200.000 circa, quelle per lavoratori subordinati sono state 85.000. Record di click dalla provincia di Milano, seguita da Roma e Brescia. Dal Bangladesh i lavoratori più richiesti, seguiti da marocchini e indiani. Procedura tutta sul web, attraverso il sito internet del Ministero dell'Interno. Requisiti in regola, saranno accolte le domande arrivate prima al cervellone del Viminale. Questa volta sembra essere filato tutto liscio, ci dice Pino Gulia, responsabile del servizio immigrazione per il patronato ACLI. Non sono stati problemi né dalle nostre sedi né da quegli utenti che noi abbiamo convinto a lavorare autonomamente sui propri computer e abbiamo anche accompagnato in maniera tale che non si potessero ripetere i problemi avuti nel 2007. Mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio gli altri due click day per i restanti 45.000 ingressi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel 2010 la Guardia di Finanza ha scoperto quasi 50 miliardi di redditi non dichiarati al fisco, con un aumento delle constatazioni di quasi il 50%. Paolo Piacenza ha intervistato il generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti. Nel 2010 c'è stato senz'altro un avanzamento molto importante nell'azione di scoperta dell'evasione da parte della Guardia di Finanza. Ai fini delle imposte sui redditi, i ricavi non dichiarati o i costi non deducibili che sono stati scoperti sono superiori del 46% sul 2009, si avvicinano ai 50 miliardi di euro, mentre 6,3 miliardi di euro sono stati scoperti nell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, circa il 6% in più rispetto all'anno precedente. Gli evasori totali, cioè i soggetti che pur svolgendo attività economiche che producono reddito ma non presentano le dichiarazioni, sono aumentati del 47% rispetto al 2009. La distanza tra accertato e riscosso è sempre il problema che poi si deve affrontare. Qual è la realtà da questo punto di vista? Negli ultimi anni si assiste anche ad un maggiore raccordo fra l'attività di verifica e l'attività di accertamento. Assistiamo negli ultimi anni, parallelamente all'aumento dell'evasione scoperta, anche all'aumento degli accertamenti e agli aumenti delle riscossioni. Questo significa che tutta la filiera del recupero dell'evasione, dal controllo al recupero, sta migliorando. Vale anche per la scoperta di evasioni all'estero? Proprio nel campo dell'evasione fiscale internazionale c'è stato quest'anno un grandissimo sforzo, sono 10 i miliardi di euro evasi scoperti a seguito di indagini sull'evasione internazionale a fronte dei 5,8 miliardi del 2009, quasi raddoppiati. Chrysler prevede di archiviare il 2011 con un utile netto per 0,2-0,5 miliardi di dollari e ricavi per 55 miliardi di dollari. I risultati conseguiti lo scorso anno sia sul fronte dei prodotti sia sul fronte finanziario hanno superato le aspettative, ha commentato l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Sergio Marchionne. Abbiamo mantenuto la promessa di lanciare 16 nuovi veicoli negli ultimi 12 mesi. Questi veicoli sono la testimonianza della rinascita di Chrysler. Queste dunque le parole di Sergio Marchionne. Il blocco del traffico ieri a Milano non è riuscito a far pulizia. Stamani l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha certificato che per il 19° giorno consecutivo le concentrazioni di polveri sottili sono rimaste al di sopra del limite consentito che l'Unione Europea appunto permette, 50 microgrammi per metro cubo. Domeniche senza auto, secondo voi sono utili? Era il nostro sondaggio di questa mattina, vi abbiamo chiesto dunque la vostra opinione. Il 39% di voi ha risposto di sì, dunque che sono utili, il 61% no. E a Milano da oggi scattano nuove misure. Da oggi il centro è chiuso alle auto che normalmente pagano Ecopass e negli edifici le temperature non dovranno superare i 19 gradi. Ma, ammette Giampaolo Gobbi dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, nemmeno se avessimo tutti auto nuovissime le polveri sottili sparirebbero. Questi nuovi supermotori producono grandi quantità di particelle finissime che inalate possono arrivare nel sistema circolatorio, anche quindi magari sono più efficienti dal punto di vista della produzione del CO2, no? Quindi dal punto di vista climatico sono più efficienti, però dal punto di vista poi del rischio sono ad alto rischio. L'unica sarebbe cambiare motori forse a questo punto, se parliamo di traffico. L'unica sì. Sarebbe sì, avere eventualmente appunto motori più puliti, che è un po' diciamo l'indirizzo in cui si tende. Motori assolutamente non a combustione, ma a motori elettrici, cose che poi riportano il problema nella sede della produzione dell'energia, dove però si possono poi mettere in atto abbattimento di particolato ed altre misure di pulizia più efficaci. Tre giovani sono morti la notte scorsa dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è finita contro un albero. È accaduto in provincia di Roma, a Fonte Nuova, intorno all'1. Le tre vittime, un italiano e due macedoni, suoi amici, avevano 25, 22 e 28 anni. Per motivi non ancora accertati, ma probabilmente per l'alta velocità, il conducente ha perso il controllo della vettura. È un incidente questa mattina, ha bloccato anche la linea ferroviaria fra Bergamo e Milano, fra le stazioni di Rovato e di Treviglio, dove i tecnici sono al lavoro per sgombrare binari dai carri ribaltati da residui ferrosi trasportati dal convoglio. Dietro il deragliamento ci sarebbero dei ladri che si sono impossessati di un furgone per rubare in una ricevitoria del Lotto di Romano, sempre nel Bergamasco. Ma sentiamo com'è adesso la situazione. Stefano Biserni, portavoce delle Ferrovie dello Stato. La situazione al momento della circolazione ferroviaria è bloccata in entrambi i binari, in quanto stanno per cominciare le attività di rimozione dei carri sviati dai binari. Per gli utenti com'è la situazione? Ci sono dei disagi? Ci sono dei ritardi nel viaggio, perché i treni vengono istradati al momento su un itinerario alternativo che va via Bergamo-Rovato, quindi fanno una specie di triangolo, e è stato istituito un servizio di bus tra Brescia e Treviglio. Quindi praticamente tutti i treni sull'asse Venezia-Brescia vengono fermati a Brescia, i viaggiatori vengono fatti scendere, portati in bus fino a Treviglio, dove trovano un servizio metropolitano per arrivare fino a Milano. Se tutto procede secondo quanto abbiamo programmato e non ci sono intoppi durante la lavorazione, prevediamo nella mattinata di domani di poter riattivare la circolazione su entrambi i binari. Da domani una rivoluzione, partono le sanzioni per i medici che non invieranno online i certificati di malattia previsti dal sistema di informatizzazione della pubblica amministrazione. Ma i sindacati di categoria denunciano che il meccanismo ha ancora troppe criticità, a partire dalla piattaforma che spesso si blocca, fino al call center che non funziona. Il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Amedeo Bianco, si rivolge al ministro Brunetta. Ministro, dovrebbe prendere atto di una situazione non ancora sufficientemente rodata, ci sono ancora delle inadeguatezze del sistema, poi stiamo parlando di un sistema sanzionatorio, noi non sappiamo ancora adesso che cosa esattamente viene sanzionato, come viene mosso il rilievo, chi lo muove questo rilievo, cioè credo che ci sia una mancanza totale dei presupposti per applicare una misura sanzionatoria. Una ferita che non si chiude mai, quella del Vajont. A quasi 50 anni si torna a parlare della famigerata diga. 9 ottobre 1963. Una frana del Monte Toc precipita nell'invaso della diga artificiale del Vajont, sollevando una gigantesca onda d'acqua che sommerge i paesi vicini, seppellendo per sempre quasi 2000 persone, le loro case, le vie, tutto. Oggi, a quasi 50 anni di distanza, il progetto della nuova centrale elettrica da 15 milioni di kilowatt nell'area della diga divide la popolazione. Quasi come per una logica inevitabile, ogni progetto, ogni intervento sul territorio divide le opinioni tra favorevoli e contrari. Qui, sulle sponde opposte, si fronteggiano anche i custodi della memoria, il Comitato Sopravvissuti al Vajont e l'Associazione Superstiti. Due pareri opposti, contrario il primo, favorevole la seconda. L'architetto Renato Mingotti è per il sì. Riteniamo che l'iniziativa dei tre comuni si possa trasformare in un riscontro economico importante per le risorse che possono derivare a servizi pubblici, alla collettività, al territorio e soprattutto anche alla memoria. Micaela Coletti invece è del fronte del no. Intanto è un progetto portato avanti da dei privati. I comuni, senza mettere assolutamente niente, avranno il 60%. Io non ho mai sentito nessuno che dà tanto per non avere assolutamente niente. Ma noi non diciamo no per questo, tanto se qualcuno ci vuole fregare si frega comunque. È che tutto il comprensorio che riguarda la tragedia del Vajont dovrebbe, deve essere considerata un luogo sacro, perché così è. Se un territorio non diventa sacro nemmeno con la perdita di queste 2000 vittime, quando è che un suolo diventa sacro? Mai. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo di cinema. Qualunque mente si conferma primo al box office per il secondo weekend consecutivo. Il film diretto da Giulio Manfredonia con protagonista Antonio Albanese ha ottenuto oltre 3.700.000 euro, seguito da Immaturi di Paolo Genovese. Terzo posto invece per Checco Zalone con Che bella giornata. Quinta posizione infine per Il discorso del re, con oltre 950.000 euro. Il film con Colin Firth, che dopo il successo ai Golden Globes e le 12 nomination ai prossimi Oscar, ieri sera ha ottenuto due SAG Awards, il premio del sindacato attori di Hollywood. The actor goes to... È l'ultimo dei premi più importanti prima della notte degli Oscar, quello assegnato dalla Screen Actors Guild, il sindacato attori di Hollywood. E il trionfo, ancora una volta, è stato per il film di Tom Hooper, The King's Speech, Il discorso del re, con ben due SAG Awards. uno al miglior attore protagonista Colin Firth e uno al miglior cast. Bene in questa 17ª edizione dei premi organizzati dal sindacato attori anche per The Fighter, dramma sul mondo del pugilato che si è aggiudicato i due premi per i migliori attori non protagonisti andati a Melissa Leo e a Christian Bale, mentre la statuetta per la miglior attrice protagonista è stata assegnata a Natalie Portman per Black Swan, ruolo che le ha già regalato un Golden Globe, così come allo stesso Colin Firth. Il premio alla carriera è andato invece al grande attore 94enne Ernest Borgnine. A presentarlo Morgan Freeman, che ne ha ricordato le origini italiane. Dopo i Golden Globes e i SAG Awards, e dopo il DGA, il premio del sindacato dei registi, sembra così più facile fare previsioni per gli Oscar. Il discorso del re sembra decisamente il favorito. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato da Anna Migliorati e condotto da Maria Piera Ceci, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.